Se dentro tuo cervello c'è chi trema, c'è chi stona. Si chiama Bruno Power, ma lo chiama Carogna. Faceva sono